Linee d'ombra di Matteo Caccia. Secondo me la mia vita si può descrivere come un giocoliere che non sa giocare con le palle e ha i pattini però non sa pattinare, quindi immaginati tu che disastro. Tuttavia, oggi, dopo una vita passata a barcamenarmi fra i piccoli e grandi incidenti quotidiani, mi trovo a benedire e a ringraziare la mia cialtronaggine. Storie di incontri inaspettati e di ex fidanzati in una puntata che si intitola L'idea che avevo di me stessa. Walt, ti prego. Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo. Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando, Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No, a me non possono sparare. No, a me non possono sparare. Questo è un pezzo che arriva da Breaking Bad, che è una delle serie televisive che ha segnato un'epoca di fatto, cioè che ha reso le serie televisive quelle che sono oggi. Io non sono un esperto e non voglio star qui a raccontarla come se lo fossi, però è una serie che ho amato moltissimo e questo passaggio che abbiamo sentito in italiano, perché sentire in inglese avrebbe poco senso, in realtà è molto famoso nella sua versione in inglese, proprio perché Breaking Bad è stata guardata per lo più in lingua originale con i sottotitoli in tutto il mondo e anche in Italia, e la versione originale di questo pezzo era I am the one who knocks, cioè sono io quello che bussa. Tu pensi, parla il protagonista rivolto alla moglie che gli sta dicendo stai facendo una cosa pericolosissima, stai facendo il trafficante di droga, potrebbero ucciderti, e lui, per farle capire come è cambiato, come il suo essere una persona è diventata un'altra, le dice: qualcuno bussa alla porta, un tizio apre e quel tizio viene ucciso. Ecco, tu pensi che io sia quel tizio ucciso? Ti sbagli. Io sono quello che ha bussato alla porta, per farle capire come di fatto la trasformazione che lo ha reso una persona cattiva, Breaking Bad vuol dire in fondo anche quella cosa lì, sia di fatto completata. Abbiamo aperto la puntata di oggi con questo pezzo, con questa clip, proprio perché la puntata si intitola L'idea che avevo di me stessa. Di me stessa, in realtà, perché le due storie sono storie che hanno come protagonista delle donne. Però tant'è, di quello parliamo. Parliamo di come può cambiare l'idea che abbiamo di noi in base ad avvenimenti esterni, in base a quello che ci succede nella vita, oppure ad esempio in base a situazioni difficili come quella che stiamo vivendo. Quanti di noi in questi giorni hanno scoperto qualcosa che non si aspettavano? Molto, molto semplicemente. Devo dire che sono molto felice dei messaggi che ci state mandando, delle storie, di diari di queste giornate particolari che stiamo ricevendo. Continuate a farlo, lineedombra@radio24.it. Ma c'è anche un'altra sorpresa, perché oltre alle storie del presente vogliamo cominciare a pensare a delle storie che parlano anche un po' di futuro, anche di quando questa situazione finirà, perché prima o poi fortunatamente finirà, e la faremo attraverso le nostre storie e attraverso la vostra voce. Più tardi vi spiegherò di cosa si tratta. Ora rimaniamo invece sui temi della puntata, sulle storie della puntata, perché la seconda storia che vi raccontiamo oggi è una storia che arriva dagli Stati Uniti ed è una storia molto divertente, perché l'autrice un giorno si rende conto che il suo ex fidanzato è fidanzato nuovamente, e tant'è, succede più o meno a tutti, ci si lascia, a un certo punto scopri che il tuo ex o la tua ex si sono rifidanzati o peggio ancora si sono risposati. In questo caso però è tutto diverso, perché la nuova fidanzata del suo ex fidanzato è una donna famosissima, e questa cosa, il fatto che il suo ex sia fidanzato con una donna molto famosa, cambia l'idea che lei ha di sé, e lo racconta molto bene. Ma la prima storia riguarda invece, che ci racconta Lidia, riguarda un aspetto molto buffo del carattere, che è la cialtronaggine. E di fatto, per quanto possiamo pensare che la cialtronaggine ci appartenga e sia parte di noi, può succedere perché grazie alla cialtronaggine cambiamo l'idea che abbiamo di noi stessi. Mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linee d'Ombra. La cialtronaggine è da sempre la mia fidata compagna. Zainetti scordati in autobus, astucci persi chissà dove, anelli e braccialetti per giunta di valore scomparsi. Una volta addirittura mi scordai di scendere dall'autobus giallo che da casa mi portava alla scuola elementare del mio paesino di montagna. Con il passare degli anni le cose non sono cambiate. Ho dimenticato appelli d'esame, ho scordato compleanni importanti. Giusto un paio di settimane fa è stato necessario scassinare la finestra di casa perché ho lasciato le chiavi sulla porta. Tuttavia, oggi, dopo una vita passata a barcamenarmi fra i piccoli e grandi incidenti quotidiani da questa provocati, mi trovo a benedire e a ringraziare la mia cialtronaggine. Sì, perché è grazie a questa mia fedele compagna che la mia vita è cambiata per sempre. Diciamo che io mi sono accorta di essere particolare quando alle medie mi ricordo che avevamo la lezione di tecnica e ero nella stessa scuola di mia sorella, solo che lei era un anno più giovane rispetto a me, e io ogni volta che avevamo tecnica dovevo andare da mia sorella a prendere il righello e la squadra, perché me la dimenticavo sempre. Poi comunque le cose sono peggiorate, perché una volta mi sono davvero anche dimenticata di iscrivermi a un appello di un esame di università. Tutto ha avuto inizio nell'estate del 2017. Come ogni anno, lavoravo come cameriera presso una struttura alberghiera della zona. Inaspettatamente, a causa di un calo della clientela, mi ritrovai a casa per alcuni giorni. Per i lavoratori stagionali si sa che questa è una circostanza spiacevole, dal momento che poco lavoro implica una retribuzione più bassa. Tuttavia, io, che da poco mi ero ripresa da una storia d'amore disastrosa, decisi di cogliere il lato positivo e di godermi quegli inaspettati momenti liberi. Fu così che accettai l'invito di una cara amica, e non un'amica qualunque. Si tratta di una ragazza bellissima, ucraina, che quando passa tutti si girano. Prendemmo la mia macchina, la posteggiammo in un parcheggio di fortuna trovato a lato della strada e corremmo a goderci la nostra serata sul lungo lago. Io non lo sapevo, ma la mia cialtronaggine si preparava a giocare le sue carte. Di ritorno dalla nostra serata, durante la quale tutti gli sguardi, con mia buona pace, erano stati catalizzati dalla mia avvenente amica, ci apprestammo a fare ritorno alla mia auto. Ed ecco la spaventosa sorpresa. La mia macchina era lì, dove l'avevo lasciata, con i fari accesi. E lì accanto, la mia cialtronaggine, che mi guardava con un sorriso di scherno, appoggiata con un braccio alla mia auto, come a dire «Eccomi qua, bella mia!». Thank you. La macchina, neanche a dirlo, non partiva. Che fare? Dove andare? Fortunatamente quella era una zona turistica molto frequentata. Decisi quindi di chiedere aiuto presso i campeggi ancora aperti, nonostante l'ora tarda. Ma niente, invano. Mi rivolsi quindi ai passanti. Niente da fare, nessuno sembrava potermi aiutare. Dopo momenti di disperazione e dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto, decisi di chiedere aiuto in un baretto sul lungo lago, che definirei da fighetti. Su incitazione della mia amica, ovviamente stanca e provata dalla camminata sui suoi tacchi 12. Ridendo le dissi: entra prima tu, se vedono te così bella forse ci aiutano. E così, stanche e affaticate, facemmo la nostra entrata. E fu così che lo vidi. Al bancone, di spalle, chino sul suo drink. Io farneticai al barista qualcosa a proposito della batteria e dei cavi, cercando di spiegarmi a gesti. L'uomo seduto al bancone, che aveva captato il discorso, si girò e con un mezzo sorriso mi disse: hai un problema? Lo risolviamo. Io mi sono messa a saltellare su me stessa come faccio quando sono felice, no? Quindi, cioè, tu immaginati la scena di quest'uomo che cioè, dice: ma questa qua magari è una serial killer, capito? Mi fa fuori. E praticamente era un uomo serio, mi ricordo che era senza barba, adesso porta la barba, la pelle abbronzata, era alto e insomma con un fisico non troppo muscoloso, slanciato come piace a me, e mi ricordo che indossava una maglietta dei suoni delle Dolomiti e un paio di pantaloncini poco sotto il ginocchio. E lo ha risolto davvero. Certo, prima di far ripartire la macchina abbiamo dovuto fare un paio di giri a vuoto perché io non mi ricordavo più dove l'avessi parcheggiata, ma alla fine il motore è ripartito, con mia grandissima gioia. In uno slancio di gratitudine lo abbracciai forte. È da allora che stiamo insieme. La mia vita da quel momento è radicalmente cambiata, in meglio ovviamente. Grazie al mio compagno ho scoperto in me risorse che non sapevo di avere. Ho realizzato molti sogni, ho cambiato lavoro, insomma, la mia vita ne è uscita del tutto stravolta. E a pensarci bene, quella volta, quando il mio futuro dolce tre quarti mi fece salire sulla sua auto per andare a rianimare la mia povera macchina, mi ricordo di averla intravista, la mia cialtronaggine, seduta sul posto dietro, questa volta con un sorriso birichino sulle labbra. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all its suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? But I've been cheating through this life. E noi siamo stati molto felici di raccontare la storia di Lidia oggi, anche in questo periodo che è chiaramente molto complesso, e ci piace raccontare storie che ci portano un po' altrove, ci fanno immaginare momenti diversi della nostra vita del passato e che probabilmente sono momenti anche della nostra vita del futuro. È ovvio, succederà, sarà così. E momenti come questi, momenti in cui si incontra casualmente una persona che diventerà la persona della tua vita, sono probabilmente tra i migliori. Pronto, ciao Lidia, buongiorno! Ciao, buongiorno, come stai? Io sto bene, questa è la domanda di rito in questo periodo. Tu come stai? Sei a casa, immagino? No, io sto lavorando perché lavoro nel settore dell'alimentazione, quindi in un ufficio ordini, quindi non possiamo esimerci. Ah, certo. Siamo in prima linea anche noi. E allora, come si dice, sì, in questo momento, grazie per quello che fate anche, anche per noi che appunto invece abbiamo magari la possibilità di fare le cose da casa. Lidia, senti, innanzitutto, quanto tempo fa accadeva questa storia? Quando l'hai incontrato il tuo fidanzato? Michele, io l'ho conosciuto nel 2017. Sì, nel 2017. Senti, quando l'hai visto cosa hai pensato? Cioè, ti sei detta questo è uno buono oppure non c'hai nemmeno fatto caso? No, se hai fatto caso è come? Appena ho visto che si girava, ho detto caspita che bel ragazzo. Davvero ho pensato un bel ragazzo. Infatti ero rimasta colpitissima da lui e mi è rimasta impressa la sua immagine per tutto il giorno successivo. Senti, ma gli hai chiesto per quale motivo lui, come tutti gli altri, non ha guardato la tua amica che era con te e invece ha dato retta a te? Gliel'hai mai chiesto poi oppure? Sì. E la risposta sì, è stata? Sì, io l'ho chiesto. È stato che il mio modo di fare, ridevo in un momento comunque non di tragedia, ma quasi, l'ha molto colpito. Poi io sono molto spontanea ed è rimasto colpito da questo, ecco. Senti, la tua amica la senti ancora? Siete ancora in contatto? Un po' meno, sì, allora ci siamo sentite però un po' meno, sai, quando la vita cambia così tanto, è cambiata tanto anche per lei, lei si è spostata, quindi ci sentiamo un po' meno. E con la tua cialtronaggine come va? Sempre uguale. Sempre uguale, perché ti dico, sono stata assunta in un posto anche abbastanza importante, dopo due giorni ho perso il mio primo tesserino, poi il tesserino l'ho perso al bar dove faccio l'aperitivo, l'ho perso nel parcheggio del McDonald's, l'ho persa in macchina, quindi giusto per farti capire come stanno andando le cose. Senti, ma tu hai un santo che ti protegge da qualche parte? Nel senso che poi cosa fai? Ritrovi? No. Denunci? Cioè, chiaramente la polizia e i carabinieri ti conosceranno a memoria tra denunce. Io ritrovo perché mi ricordo dove lascio, perché sono molto metodica e mi ricordo tutto ciò che faccio, quello che ho fatto, non quello che devo fare. Quindi è una memoria retroattiva. Hai trovato un punto di equilibrio tra il fatto di essere di convivere con questa cialtronaggine e però dall'altra parte sapere esattamente dove sei, in che momento sei della tua vita? Sì, necessariamente. Io sono molto molto metodica e l'essere metodica, l'incasellare la mia vita in schemi fissi, mi aiuta a sopravvivere, insomma. Quindi io ho una routine fissa sia proprio nel quotidiano che in termini più vasti, cioè io programmavo quando studiare, quanto studiare, programmo la mattina cosa fare, i tempi della passeggiata col cane, i tempi di colazione eccetera, e così sopravvivo. Fantastico, questo mi sembra un ottimo metodo per sopravvivere quando si è, diciamo, leggermente sbadati. Senti, avete in mente di sposarvi, fare quelle cose che fanno le coppie? Beh, noi conviviamo già, Okay. Quindi sì, stiamo già convivendo e sì, beh, a me piacerebbe tanto sposarmi. Però ora diciamo che la palla è nel suo campo e spetta a lui comunque proporsi. Ah, perché tu, diciamo, ti sembra giusto che sia così, che accada ancora così. Cioè non, dai ragazzi sposiamoci, ma no, me lo devi chiedere. La regina Vittoria si è proposta lei, però io sono solo Lidia, non la regina Vittoria, quindi spetta a lui. Lidia, allora ti ringrazio moltissimo, come farebbe la regina Vittoria. Ti ringrazio molto per essere stata con noi, per averci raccontato la tua storia. Grazie a voi. Ti faccio i più grandi in bocca al lupo come diritto. In questo periodo, ma anche rispetto al matrimonio, facci sapere, cioè, vediamo. Se un giorno o una sera lui, quando riapriranno i ristoranti, ti porterà e ti dirà vuoi diventare mia moglie, mandaci quella storia lì, perché chiaramente succederà qualcosa, esatto, o perdi l'anello o robe del genere. Sì, sicuramente perdo l'abito, sì, madonna, me lo immagino già, sai. Lidia, in bocca al lupo per tutto, grazie davvero. Grazie, a ciao, presto. Buon lavoro, ciao, saluti. Anche a te. Ciao, grazie. Ciao. Yeah, I didn't get you're out on the streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. L'idea che avevo di me stessa si intitola la puntata di oggi di Linee d'Ombra. Abbiamo sentito la storia, la chiacchierata con Lidia, e tra poco torniamo con un'altra storia che ha a che fare sempre con l'amore, in cui c'entra un personaggio molto molto famoso. Siamo stati colpiti, ma siamo consapevoli. Siamo distanti, ma siamo uniti. Siamo italiani. Venerdì 20 marzo, ore 11, alza il volume della tua radio. Esci sul balcone, sventola un tricolore o ciò che ti fa sentire italiano e canta. Canteremo tutti insieme. Tira fuori tutto. La speranza, la voglia e la forza e l'orgoglio di essere italiani per sentirci più vicini. Per la prima volta nella storia, tutte le radio unite sono con te. La radio per l'Italia. E ricorda, andrà tutto bene. Linee d'ombra. La puntata di oggi di Linee d'Ombra si intitola L'idea che avevo di me stessa. E dopo la storia di una giovane donna e della sua sbadataggine, ora ve ne raccontiamo un'altra. Quella di una donna, una giornalista del New York Times, che un giorno scopre che il suo ex fidanzato ha una nuova fidanzata, e la nuova fidanzata le fa in parte rivedere l'idea che lei aveva di se stessa. State con noi. Stavo mangiando uva alla mia scrivania un lunedì di qualche giorno fa. Mi stavo preparando per aprire la mia cartella di posta quando il mio telefono ha iniziato a vibrare. Controlla su Facebook, leggo. Controlla su Twitter. Stai bene? Era un'emergenza. Il mio ex ragazzo, ho realizzato, aveva una nuova fidanzata. E quella nuova fidanzata era Lady Gaga. Fa un po' ridere, lo so, ma era vero. Mentre io guardavo il Super Bowl in televisione a New York, loro venivano inquadrati mentre si accomodavano nel suo box privato all'Hard Rock Stadium di Miami. C'erano i paparazzi che li fotografavano mentre lui le accarezzava i suoi capelli rosa. I siti di gossip hanno cominciato a scrivere pezzi riguardanti l'uomo del mistero di Lady Gaga. Qualcuno ha scritto che Gaga indossava il nuovo accessorio più sexy del 2020, un fidanzato normale. La storia è apparsa sul Daily Mail e su People, dove mia madre ha letto ovviamente la notizia. Sono stata con quest'uomo normale e misterioso per 7 anni. La nostra relazione è durata per tutto il college e per un paio di anni dopo. Come si può intuire dal fatto che probabilmente non avete mai sentito parlare di me, io non sono famosa. Così, all'improvviso, è come se fossi diventata una star per procura. Io non seguo il mio ex sui social media. Eravamo amici su Facebook, poi siamo stati in una relazione su Facebook, ma dopo che ci siamo lasciati ho notato che su Facebook lui mi aveva bloccata. E io non l'ho cercato su Google per mesi, giuro. Ma da quella sera, all'improvviso, sapevo tutto sulla sua nuova relazione, a pochissime ore da quando era stata resa nota. Per certi versi, questo è l'arco naturale, anche se assurdo, dell'intera vita adulta della mia generazione. Per capirci, se guardo le foto online, in una serie di foto, io osservo da destra a sinistra gli ex fidanzati delle mie amiche che assistono alle gravidanze delle donne che oggi hanno sposato. A volte conosco i nomi dei figli che ne derivano, i figli che quasi certamente io non incontrerò mai. Ma saprò comunque se per Halloween si sono vestiti da principesse o da pirati. Ho visto i loro alberi di Natale e i loro castelli di sabbia. A volte il loro profilo social si spegne per un periodo, le cene spariscono e poi scopri che sono tornati single. Prima eravamo ossessionati dalle celebrità e poi abbiamo iniziato ad ossessionarci l'un l'altro. Poi, un giorno, ho sfogliato Instagram e ho visto un post di Lady Gaga. Era seduta in braccio al suo nuovo fidanzato. Lui, il mio ex. Ma invece di pensare «Merda, perché non sono io al suo posto?» Quando li ho visti insieme ho pensato «Alla fine, quella lì sono stata io». Facendo crollare immediatamente l'illusione della mia nuova celebrità. Take my hand, stay Joanne, heaven's not ready for you. Every part of my aching heart needs you. All'inizio ero sconvolta. Quando un amico mi ha chiamato quella mattina per parlarne, la mia voce era effettivamente tremolante. Ma poi ci ho pensato e ho avuto una sorta di illuminazione. Lady Gaga è fantastica, lo sappiamo. Confrontarsi con lei è incredibilmente motivante e consiglio a tutte di provarci, indipendentemente da che relazione hai con il suo nuovo fidanzato, ovviamente. Almeno, questo è quello che ho fatto io. Per esempio, avrei indossato un vestito nero che avevo messo in saldo anni fa ad un evento quel fine settimana, ho pensato, probabilmente per la 27esima volta. Ma Lady Gaga non avrebbe mai fatto una cosa del genere, giusto? Non ho mai posseduto niente che costasse più di una settimana di spesa, mentre lei è una donna che indossa pezzi di carne cruda su un tappeto rosso. E quindi sono andata in un bel negozio in cui non ero mai stata prima e ho provato qualcosa. La commessa mi ha chiesto quale fosse l'occasione. Ho scoperto da Facebook che il mio ex esce con Lady Gaga, le ho detto. E lei mi ha guardato e ha risposto con davvero? Il vestito era troppo costoso, ovviamente, ma l'ho comprato lo stesso. Perché dovrei accettare di essere da meno di Lady Gaga? Il punto è che Lady Gaga sta vivendo la vita ambiziosa che continuiamo a dire che le donne dovrebbero abbracciare. Una citazione che ricordo di aver letto da lei, probabilmente su Instagram, dice così: «Non lasciare mai che qualcuno al mondo ti dica che non puoi essere esattamente quello che sei». E se Lady Gaga può fare quello che vuole, perché non dovrei farlo anch'io? Perché non lasciare che essere esattamente chi sono significhi cercare di essere il meglio che posso essere? Recentemente qualcuno mi ha mandato una foto del mio fidanzato e di me che ballo a un matrimonio anni fa e l'ho postata su Instagram. E così, scorrendo la gallery del mio telefono, ho visto il nuovo fidanzato di Lady Gaga tra le mie foto e mi sono resa conto che in realtà siamo tutti la stessa cosa. Siamo tutti degli sconosciuti che sorridono su uno schermo. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Hey, so glad you could make it. Yeah, I'm never. La storia che vi ho appena raccontato è una storia molto molto divertente, ma anche molto interessante rispetto al tema della puntata di oggi, che è appunto l'idea che avevo di me stessa. È una storia che abbiamo trovato sul New York Times, una storia che lei stessa ha scritto, essendo lei una giornalista del New York Times, che si chiama Lindsay Krause, e il pezzo si intitolava My Ex-Boyfriend's New Girlfriend is Lady Gaga. La nuova fidanzata del mio ex fidanzato è Lady Gaga. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Cinema, voli aerei, giochi, libri o web. Una vita di piccole grandi cose. E dietro sempre lei, l'economia. Sono Anna Migliorati e vi accompagnerò alla scoperta dell'economia delle piccole cose. Perché conoscere aiuta a scegliere. Vi aspetto ogni sabato dopo il GR delle 7 su Radio 24. Linee d'ombra. E ora sono molto felice di dare il là ad una novità di Linee d'Ombra, perché come vi dicevo in apertura, noi stiamo raccogliendo da una settimana i vostri diari di questa nuova epoca difficile che stiamo vivendo, e la stiamo vivendo in alcune situazioni in maniera drammatica, in altre quasi buffa, questa rimanere a casa in maniera forzata e dover rimanere distanti magari dalle persone che si amano, insomma tutte le possibili vie che prende nella vita di ognuno di noi questa situazione. Possiamo raccontarla, potete condividerla in una pagina, in mezza pagina di diario a lineedombra@radio24.it. oltre ad una fotografia del presente, però ci piace provare già ad immaginare il futuro, ci piace provare ad immaginare cosa accadrà quando tutto questo sarà finito, e ovviamente lo facciamo a modo nostro, lo facciamo attraverso delle storie. E quindi vi chiediamo, l'abbiamo cominciato a fare prima sui nostri social e adesso ufficialmente lo facciamo anche in onda, vi chiediamo di mandarci degli audio, dei messaggi audio, quindi non delle storie scritte, ma dei messaggi audio di uno o due minuti massimo. Potete mandarceli o sui nostri profili Instagram, il mio, Matteo Caccia, oppure quello di Anita Panizza, oppure potete usare il profilo Facebook di Linee d'Ombra o sempre il mio personale, Matteo Caccia. Attraverso i messaggi diretti usate il vostro telefono, aprite il microfono e ci raccontate una storia. Che storia vi chiediamo di raccontarci? Una storia di rinascita, una storia di un momento che dopo un periodo difficile, dopo una malattia, dopo un fallimento, dopo un amore che è andato male, vi ha fatto tornare a sorridere. Sapete come succede? Delle volte succede perché uno esce, respira un po' di aria fresca e capisce che è guarito, che quella cosa è passata. Una volta invece succede perché ci lavora per mesi, per anni magari, e finalmente quel momento buio passa grazie magari a uno sport, grazie a una terapia. Insomma, se avete voglia di condividere con noi le vostre piccole storie di rinascita, noi non vediamo l'ora di metterle in onda e di raccontarle. Ci mandate un audio attraverso Instagram o attraverso Facebook, vi ripeto, o il mio profilo Instagram Matteo Caccia, che credo sia Matteo Caccia Matteo, ma tant'è, mi trovate, oppure i nostri profili Facebook che sono Linee d'Ombra, oppure sempre il mio personale Matteo Caccia. Andate nei messaggi privati col vostro telefono, aprite il microfono e ci mandate una storia. Lì durano un minuto, potete mandarcene due eventualmente di storie. Si chiama Piccole storie di rinascita, questo nuovo modo di raccontare le storie. Andate con la memoria là, a quel momento in cui tutto è ricominciato. Noi ora raccontiamo la storia di Elena, la ringraziamo moltissimo. Ci dobbiamo scusare con Elena perché lei ci ha mandato un messaggio lunghissimo di 6 minuti, l'abbiamo ridotto a un paio, ed è una storia di rinascita vera e propria. Piccole storie di rinascita. Tutto è iniziato che avevo indosso quella gonna rosa e polpaccio che mi piaceva tanto, e lo specchio davanti a me. È successo che ho scoperto lo specchio. Avevo 10 anni. Ero grassa, schifosamente grassa, ma non mi ero mai guardata. Ero immobile, con quella gonna lì, di cotone rosa antico, leggera e con i fiori. La gonna era bellissima, io bruttissima. La mia pancia era rotonda e sporgente, grassa e grossa. Ho pensato subito a mia madre. Mamma, ma perché non me l'hai mai detto prima che ero così grassa? Accanto a me Laura, com'era bella, si guardava anche lei, ma era a suo agio. Si guardava dritta e sorrideva. Dopo 6 o 7 anni ero praticamente una donna. Alta con il fisico, dicevano. Ma quante balle, quante bugie. Le cosce troppo larghe, con un diametro eccessivo. E poi si toccavano. Che schifo facevo. Lo pensavo sempre. Quando facevo la doccia, quando ero costretta a guardarmi nelle vetrine. Odiavo gli specchi. Poi finalmente è arrivata lei, Lucia, con la soluzione. Smetti di mangiare, poi corri ogni volta che puoi. Non stare ferma, mai. Nuota, cammina. Smetti di mangiare, smetti di mangiare. Bevi piuttosto. Arriva tardi alle cene, evita i compleanni. All'inizio sarà un po' così, ma poi diventerà facile, è solo una questione di abitudine. A 17 anni ero più esile, a 18 di più, e 20 in ricovero. Prima all'ospedale, poi la clinica per persone affette da disturbi alimentari. I mesi in clinica sono stati terribili. Sono stati 6 mesi. Passa un anno e mio fratello muore. Si schianta in moto, contro un albero, perché un'auto non rispetta la precedenza. Ma lui avrebbe voluto che io mangiassi. Lui si preoccupava per me se non mangiavo. E quindi mangio. Poco, ma mangio. Claudio è morto e mi ha aiutato a rinascere. Ho reagito ed è stata la prima volta. Chiudiamo la puntata di oggi continuando a raccontarvi la nostra storia seriale, la storia che Mauro Pescio ha raccolto grazie ad Anna Maria, che chiude in qualche modo il ciclo legato alle storie seriali che raccontano i vizi capitali. L'ultimo vizio capitale che vi raccontiamo è il vizio della gola, e Anna Maria si è davvero aperta in maniera molto spontanea con Mauro, e noi le siamo davvero molto grati. Lo dico sempre per tutti quelli che ci hanno raccontato la loro storia personale in maniera seriale, in viva voce, tra l'altro, che è diverso che mettersi a scrivere su un computer e spedire. Uno può nascondersi dietro lo schermo. Molte persone, quando ci mandano la storia, ci chiedono di non coinvolgerle al telefono, e quindi non le sentiamo. In questo caso invece la persona non solo viene incontrata da Mauro Pescio, ma proprio va in onda la sua voce. E Anna Maria, in questa puntata in cui ci racconta come è nata il suo problema con il cibo e con la gola, e quindi l'anoressia, la bulimia, insomma, mentre ce lo racconta ci fa una confessione davvero enorme. La sensazione è com'è? Ti ricordi il primo Alien? quando c'era la prima volta che vedi che il mostro esce, no? Però la persona dal quale il mostro era uscito era perfetta fino a un secondo prima. Quindi tu hai dentro di te questo mostro che da qualche parte ti immagini prima o poi venga fuori, perché no, non può rimanere così dentro, non può mangiarti, cioè dopo un po' che avrà finito di mangiarti dentro verrà fuori e mangerà anche il resto. Legato alla violenza c'è stato un altro momento di dolore molto importante. Io allora non sapevo che ci si potesse confrontare con dei professionisti in questo senso. Non sapevo nulla e avevo anche evitato di approfondire questa cosa sui libri. Avevo solo fatto dei test per vedere se avevo contratto qualche malattia fondamentale, ma a parte questo mi ero sforzata di nascondere tutto dentro di me. Però il dolore era così devastante che non bastava per schiacciarlo. Io mi sforzavo di gestirlo in maniera razionale, ma lui era lì, presente, e spingeva per avere il sopravvento su tutta me stessa. In qualsiasi momento della tua giornata, lui c'è, sempre, mentre respiri, mentre ti fai il bagno, mentre sei con gli amici, lui è lì, è sempre lì, presente. Tu puoi anche farla splendida, ottenere dei risultati, fare delle cose bellissime, ma tu sai, è un po' come la sindrome dell'impostore, però al contrario, vista al contrario. Tu sai che c'è questa cosa dentro, che prima o poi verrà fuori, e allora la domanda è: ma se dovesse venire fuori, allora io non sarò più perfetta come io mi sto costruendo? Però dentro di me c'era questa sensazione di dover chiudere questa cosa in qualche modo, cioè dovevo sconfiggere il mostro, ma non avevo gli strumenti per sconfiggere questo mostro. Per cui ho pensato che la cosa migliore era semplicemente andarmene. Per 3 mesi misi da parte un giorno dopo l'altro delle compresse che stava assumendo mia mamma. Fondamentalmente erano dei barbiturici, ma erano in casa e mia madre li poteva prendere. Io mi sono fatta un'autoterapia che mi avrebbe condotto alla fine. Per farlo mi sono documentata, come al solito. Sono andata in biblioteca e ho studiato quello che dovevo fare per bloccare il cuore e le quantità giuste da assumere. E poi, quando tutto era pronto, ho preso i farmaci. Non voglio essere indelicato. No. Tu hai subito una violenza a, diciamo, 17 anni. Sì, 16 anni, erano 18. 18. 3 giorni prima del mio 18° compleanno. Quando è che hai tentato il suicidio? E, da marzo, era tra giugno e luglio, 3 mesi dopo. Ovviamente non hai parlato a nessuno di quello che ti è successo. No. Del suicidio lo sanno solamente i miei familiari, perché era caduto in casa, ma della cosa che aveva scatenato questo non lo sa nessuno. Non non potevo parlarne. Si chiude così anche questa puntata di Linee d'Ombra. Vi ricordo che la storia seriale la potete ascoltare in piccoli slot da 5 tutta la settimana intera, se vi piace, se volete riascoltare la storia di Anna Maria raccontata da Mauro Pescio, o online sul nostro sito in podcast, oppure il sabato alle 21:30 qui su Radio 24, un piccolo riassunto di tutte quante le 5 storie seriali della settimana. Se invece volete continuare a mandarci le vostre storie a Linee d'Ombra, mandateci sia le vostre storie di confine, le storie che hanno una linea in mezzo e che raccontano qualcosa di voi, in 1 o 2 pagine, linee d'ombra@radio24.it, ma vi ricordiamo anche che in questo periodo di emergenza, in questo periodo complicato, stiamo cercando un modo per raccontarlo, e quindi se avete voglia di mandarci i vostri ideari sulla vostra nuova giornata, la mia nuova giornata con mio figlio a casa, la mia nuova giornata a passeggiare con il cane alle 2 del pomeriggio, cosa che non ho mai fatto perché semplicemente lavoravo, in una paginetta ci scrivete il vostro diario, è sempre linee d'ombra@radio24.it. Ora sentiamo il GR, poi torniamo puntualissimi domani a raccontare storie, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!